ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati. Qualcosa di diverso, di speciale. Non il solito noioso tran tran quotidiano. Io chiedo al mio partner qualcosa di diverso. Una vita con... Desiderate qualche cosa? Un caffè. Ah. Con un po' di humor. Di fantastico, di sorprendente. Un caffè con humor. Che? Con humor. Non c'è più, è finito. Ci metto voce e fermette, guai. E ce ne vorrebbe davvero di humor. Buon caffè e ben ritrovati da Anna Migliorati. E se il caffè lo abbiamo bevuto in vacanza al bar, tornati al lavoro, che succede? Qualche esempio. Londra, il 20% torna in ufficio, nella City si dice addio al classico bicchierone. Ma anche da noi, Milano, città del lavoro di fretta per eccellenza, 12.000 residenti in meno da febbraio ad oggi. E residenti veri, cancellati già dall'anagrafe, ha certificato il capoluogo lombardo. Dopo anni di crescita, con il top raggiunto con l'effetto Expo, Milano perde abitanti. Il record è stato, guarda caso, a febbraio, 1.406.057 residenti. Nell'era Covid sono di meno. Si lavora altrove, non si rientra e si contromigra. Noi cominciamo anche oggi con la nostra storia che ci porta al Giamaica, storico bar di Brera, cuore di Milano. Non ci avevano chiuso neanche i bombardamenti della guerra. Fu il post affidato ai social durante il lockdown dalla proprietaria Michela Mainini. Benvenuta. Ora, avete riaperto, come va? Tragedia? Ne basta come risposta? No, ne posso essere anche più articolata. Siamo, essendo in centro storico, al di sotto dell'80% dell'incasso. La situazione è drammatica. Senta, ma noi abbiamo visto tutte le scene di chi andava al ristorante o al bar in vacanza. Perché non ci si va in città? Non me lo faccio dire, la prego. Ma io vorrei che lei provasse a spiegarmi. A Milano sicuramente tanto i turisti non ci sono, ma manca una grossa, grossa fetta. E poi lo smart working, perché comunque i ricchi di Brera sono ancora tutti in vacanza o a farsi smart working alla Vella, Portofino. Cioè, comunque in periferia si sente molto meno. E diciamo che da questo punto di vista mi fa anche piacere, se noi non fossimo sull'orlo del fallimento lo troverei anche molto bello. Cioè, le periferie hanno ricominciato a vivere, perché magari anche chi è in smart working magari va giù a prendersi il caffè o a prendersi la birretta sotto casa. Non è che, non avendo più da venire in ufficio, tutti i centri storici, ma non credo solo di Milano, ma so anche di Roma, eccetera, sono in una crisi totale. Quindi lo smart working, la mancanza di turismo, a far ripartire l'economia non aiuta. Avete mai visto una Milano così? Voi che siete da veramente tanti anni. Sono successe tante cose, insomma, nella storia italiana ci sono stati tanti momenti di piombo. Neanche negli anni di piombo. E guardi che dal dopoguerra in avanti gli anni di piombo sono stati peso vero, Neanche negli anni di piombo. Se le dico che l'anagrafe di Milano da qui a febbraio ha già registrato un calo di residenti, ma già certi... Io conosco un sacco di gente che ha lasciato la casa e ha detto torno a gennaio-febbraio. Cambia e modifica l'economia spicciola di una città. Certo, non si va al bar per il caffè, per l'aperitivo, per il pranzo, per tutto quello che vuole, e non guadagnano. Il problema è che le città stanno diventando delle città morte. Città morte? Davvero così? Mario sputa e tira fuori i conti del bar. 270.000 imprese, 1 milione di addetti, un valore aggiunto di 40 miliardi di euro, i numeri del settore in Italia. Chi decide di andare al ristorante o al bar è attento ora alle misure di sicurezza sanitaria, il 47,4%, al distanziamento tra i tavoli, il 35,2%, così un'indagine FIPE Confcommercio, e chi lo fa tende a privilegiare luoghi conosciuti. Facciamo i conti. Per farlo saluto Luciano Sbraga, direttore del Centro Studi FIPE, benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Vale a dirlo, vista l'ora, buona giornata e buon caffè, visto che di questo parliamo. In piena bufera Covid, l'abbiamo sentito anche dalla nostra storia, sono molto cambiati i rapporti, soprattutto delle colazioni al bar, dei pranzi al bar, di quegli spazi che c'erano nelle nostre città che vivevano proprio di questo. Riusciamo a fare un quadro? Sono le due occasioni di consumo che stanno risentendo maggiormente della contrazione della domanda. Un dato: oggi chi dichiara che non fa la colazione al bar arriva quasi ormai al 60%, c'è una contrazione di circa il 20%, e come motivi per cui non si fa la colazione fuori casa, ma poi vale anche per il pranzo, c'è lo smart working, non come facevo abitualmente quando andavo al lavoro, e quindi è la pausa colazione, la pausa caffè, adesso non la faccio, ma la faccio in casa. In qualche caso abbiamo un ritorno sui consumi di prossimità, perché magari si scende. Le periferie, paradossalmente, si sono rianimate, a soffrire sono più i centri storici, i centri direzionali. Sì, è chiaro però che questo sconta un fatto, cioè le attività nelle periferie erano strutturate, organizzate per rispondere ad una certa domanda e quindi avevano trovato il loro equilibrio, le attività del centro storico avevano trovato l'equilibrio che era dato da una concentrazione di attività, di esercizi, perché c'era una concentrazione di domanda. Oggi tutto si è squilibrato. Quanto manca in termini assoluti di fatturato? Di quanto stiamo parlando? Allora, noi abbiamo un dato di consuntivo su cui c'è poco da discutere, che riguarda il primo semestre 2020, e stiamo parlando di meno 19 miliardi di euro rispetto al fatturato 2019. A questi noi pensiamo che ragionevolmente nel secondo semestre se ne possano aggiungere come perdita altri 5, quindi arriviamo a meno 24 miliardi, vuol dire una perdita di un quarto del fatturato. Per i clienti è solo un cambio di abitudine? Cosa è cambiato? L'offerta si sta un po' ridefinendo con il problema dei menu che devono essere gestiti in modo usa e getta, quindi riducendo l'assortimento, l'offerta. Questo non vuol dire diminuire la qualità, ma se molti, con l'inserimento del menu digitale, con i QR code, possono leggere dei libri, no, del menu. L'altro elemento è quello che è partito con il lockdown, ma diventerà sempre più strategico. La precedo, il delivery. Del delivery, esatto. Anche lì bisogna capire che il delivery non è una cosa che si improvvisa, e vediamo poi in media d'anno che cosa accadrà, questo lo vedremo alla fine. Grazie, allora magari ci risentiremo anche verso la fine dell'anno per capire poi come ha proseguito tutto questo cammino. Grazie intanto per essere stato con noi. Buona giornata. I numeri li abbiamo, tiriamo le fila. Tornerà a essere l'immancabile ritrovo della comunità come nei paesi di una volta, al bar o locale sotto casa o in centro? O come si trasformerà? Io chiedo un aiuto a chi si sta ponendo questi problemi. Grazie a voi, ben trovati, sono Marco. Possiamo dire anche il cognome? Sì. Sì, Marco Ranocchia. Anni di esperienza in questo campo, giusto? Prossimo anno saranno 30 anni dell'azienda che gestisco come formazione per barman, si chiama Planet One. Andiamo pre-Covid, anche negli anni passati, insomma, i bar che sono poi a febbraio sono trovati di fronte alla pandemia, in realtà erano molto diversi da quelli di qualche anno fa, c'erano già dei cambiamenti in corso. Nell'arco di questi 30 anni i cicli sono stati costanti, circa le mode hanno durato cada una tra i 5 e gli 8 anni, i lounge bar, gli American bar, i tiki bar. La spinta è dovuta alla mobilità delle persone che, andando in giro per il mondo, cioè cercavano nel nostro territorio di rivivere le emozioni provate, che so, ai Caraibi anziché a Nord Europa. Quindi è un settore che è sempre stato comunque in evoluzioni abbastanza veloci. La crisi ora ovviamente ha spazzato via tutto. Cosa sta succedendo? Come uscirne? Guarda, l'innovazione è nella genialità degli italiani, nell'adeguarsi ai cambiamenti, ma anche essere molto reattivi. Devo dire che sono molto virtuosi. E tieni presente che i gestori delle attività del consumo fuori casa sono molto tenaci. Indubbiamente il delivery è stato, tra virgolette, un ammortizzatore della perdita di vendite. Quello che non vieni a prendere nel mio locale te lo porto a casa. Esatto, ma questo comporta un discorso non così semplicistico. Hai un raggio d'azione, ovviamente devi portare a mano, si fredda il caffè, 150-200 metri dal punto di erogazione, hai 3-4 minuti per servirlo, anche in condizioni di cassazione termiche poi perde il suo valore, quindi... È un discorso complesso, per fortuna però gli italiani sanno reagire, perché lo facevano negli anni 50 che portavano il caffè agli uffici comunali, quindi hanno ripreso un pochettino le vecchie abitudini, quelli che hanno potuto, e hanno una densità di popolazione che lo permette. Molto differente l'Italia, molto variegata. L'abbiamo raccontato un po' per tutte le esperienze, e l'ultima domanda la stiamo facendo un po' a tutti, ma è quanto mai dovuta. La previsione, ammesso di averla una palla di vetro, come usciremo cambiati dopo il Covid? Quale sarà il locale del futuro? Resterà qualcosa di tutto questo? Un cambio di abitudini? Noi siamo animali abitudinari, ci piace ritrovare le vecchie abitudini, le vecchie zone di comfort. Indubbiamente il sistema organizzativo, gli spazi che vanno ridisegnati, chissà per quanto durerà, poi sarà ancora più lunga quella che è ormai l'abitudine a essere più distanti. Alla fine una crisi comporta anche una revisione interna, che è una revisione economica, ma anche una revisione strutturale e gestionale. Molto probabilmente quello che bisognerà fare molto attentamente è la cura del cliente, la coccola, per dare la sensazione di stare a casa in tranquillità e in sicurezza, e soprattutto le storytelling, cioè raccontare quello che servi, che abbia un valore maggiore che non il consumismo to court, così, ma un'esperienza unica. Vengo qui perché voglio sentirmi così. Esatto. Mario manda tutti a nanna e poi chiude il bar. Grazie, noi ci risentiamo puntuali sabato prossimo. Grazie a Carmelo Lauricella in regia. Un saluto da Anna Migliorato. Mario manda tutti a nanna e poi chiude il bar. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.